lavoratori del mare. Che il mare con noi cantò, da che fatiche stette il ciclone, la nostra errante vita affrontò. Quando compagni d'ora e veniero, dimorando i solmori, e giù dai corchi dei frutti neri, qualcun dei nostri cante sparì. Ai singhiozzi del mare in alto, raccoglie radia tutte le voci che il tempo porta da mare a mare, e soffia dentro le mele forti, verso le sciolse la nostra fede, che chiama e chiama da tutti i porti, dalla gente. Avvisi tra le nazioni, di fratellanza, ponti che siamo, noi nostri corpi su dai peggiori, e nuovo i nuovi li ridettiamo. Ciò che dai mille muscoli spremi, tutto in mani, la civiltà.